nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 20 ottobre, il sole in regione sorta alle 7.31 e tramonterà alle 18.13. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Natascia Gargano. Si accende il dibattito sul consumo di suolo nella nostra regione, che negli ultimi anni ha scalato la relativa classifica nazionale. Confagricoltura chiede di risparmiare il più possibile i terreni vocati alla coltivazione e di concentrarsi maggiormente su quelli marginali, mentre resta un problema quello degli incolti e dell'avanzare del bosco. Anche il sorgo di Aleppo ha fornito spunti a Enos Costantini per parlare della conduzione del territorio basata sulla chimica. A seguire avremo la regolamentazione di un prodotto oltremodo di stagione, il vin novello. La rubrica dedicata all'olio e olivo si sofferma oggi sulla situazione in regione a inizio Novecento. Quella dei giardini ci parla di un parco dove convivono rose e tartufi, mentre quella delle tame descrive le prassi di concimazione nei fondovalle alpini, dove un ruolo particolare lo avevano anche le foglie secche. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Secondo il rapporto ISPRA 2019 sul consumo di suolo, la nostra regione ha peggiorato ulteriormente la propria situazione, posizionandosi al quarto posto in Italia, era quinta solo lo scorso anno. Nell'ultimo anno il Friuli Venezia Giulia è stata la regione italiana che ha mostrato il secondo incremento percentuale di aree urbane, più 0,34% rispetto alla superficie esistente nel 2017. In valore assoluto sono 239 ettari di suolo naturale perso, corrispondente per capirci a 334 campi di calcio. Anche in rapporto alla popolazione residente nella nostra regione c'è stato l'aumento di 1,96 metri quadri cementificati per ogni abitante, il terzo peggior risultato tra le regioni italiane. Ne parliamo con Philippe Turnvalsassina, presidente di Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia, organizzazione che di recente ha risollevato questo problema. L'agricoltura si sente molto impegnata per quello che concerne la gestione del territorio e vedere questa cementificazione ci preoccupa. È chiaro che, come si evidenzia, molti terreni in pianura magari rimangono incolti perché la redditività è molto calata, ma dall'altro ci sono degli aspetti ambientali che ci garantisce il terreno agricolo che non riscontriamo poi se abbiamo dei terreni cementificati. Ad esempio, un terreno lavorato ci permette di avere un drenaggio che è 10 volte superiore a quello di un terreno cementificato. Voi lamentate il fatto che si aggrediscono soprattutto terreni agricoli e si potrebbe invece agire su quelli più marginali. E adesso, nell'ottica dei nuovi piani ambientali nazionali, le limitazioni all'agricoltura nel lavorare limitrofi alle abitazioni stanno crescendo fortemente, perciò andare a aggredire terreni che sono vocati all'agricoltura in zone rurali creano grossi problemi. Invece ci sono già delle zone urbanizzate, poco sfruttate, che potrebbero sicuramente essere più adatte a questi capannoni e altre strutture industriali. Gli incrementi di questi ultimi anni, voi lo segnalate ma non ve ne lamentate, sono dovuti soprattutto o in buona parte alla costruzione della terza corsia della 4. Da quel punto di vista lì siamo fortemente favorevoli, perché oggigiorno, come sappiamo, i nostri prodotti trovano il loro sbocco all'interno delle esportazioni e dunque favorire le infrastrutture, che siano ferroviarie o autostradali, per noi è molto importante. E che dire del bosco che avanza e mangia suolo agricolo a una velocità spaventosa? Questo è un grosso problema, soprattutto per le aree montane. È chiaro che dobbiamo trovare in regione delle soluzioni che rendano più redditivo poter sfruttare questi terreni e dunque ritornare alle vecchie pratiche come l'alpeggio, come culture che magari sono andate storicamente perse. Comunque siamo di fronte a un cambio di prospettiva, un cambio di filosofia, meglio, non più riordini agrari, ma una agricoltura a misura di suolo. Questo è quello che ci chiede la regione e anche quello che è il sentir popolare. E sicuramente oggigiorno la sostenibilità passa sia da quella ambientale ma anche da quella economica, e dunque riuscire a trovare il giusto equilibrio tra i due non è facile. Anche un infestante come il sorgo di Aleppo ha un suo ruolo nell'ecosistema, se non altro quello di avere ispirato il corsivo di oggi di Enos Costantini. Aleppo è o era una città della Siria settentrionale, antichissima, multietnica e multireligiosa, in passato devastata da terremoti e diventata patrimonio dell'umanità UNESCO. Il botanico che ha battezzato Sorghum Aleppense, cioè sorgo di Aleppo, una purtroppo nota graminacea, ne voleva sottolineare l'origine medio orientale. Certamente in Friuli non è arrivata ieri, se qui, accanto a nomi quasi ovvi come Sorghette e Sorghie, vi è il più arcaico Runduie o Rundugne, spiegabile con Arundo, denominazione latina di varie specie vegetali che formano canne. Da tempo perciò i friulani lottano contro questa specie invasiva invadente. Essa salì a grande fama quando, complice la sua resistenza alla trazina nella monocoltura del mais, divenne un problema quasi insormontabile. Ci fu chi tornò la zappa, soprattutto donne queste in verità, ci fu chi consigliò erpicature ripetute e ci fu qualche cattedratico che assai timidamente accennò ai benefici delle rotazioni. L'industria chimica però non poteva non approfittare dell'occasione. Creare un problema e poi guadagnarci a risolverlo è sempre stata la sua vocazione. Arrivò così un diserbante, loro dicono agrofarmaco, con un nome tanto efficace quanto friulano, Fusilade. Ora il mais si diserba con una complicata pozione degna di un alchimista e il sorgo di Aleppo viene messo in condizione di non nuocere. Ma vi sono anche i lati delle strade. È dagli anni 70 che gli australiani, per esempio, si lamentano del fatto che questa pianta compromette la sicurezza degli automobilisti, diminuendo la visibilità in incroci, curve e rotonde. Per il Friuli posso solo osservare che i lati di tante arterie, anche di grande traffico, sono delle rigogliose colture non coltivate di sorghie o runduie, che dir si voglia. La visibilità della segnaletica orizzontale e soprattutto di quella verticale, è un diritto in uno stato di diritto. L'intervento chimico è proibito, ma l'ente pubblico subentrato alla provincia, una volta venduti gli spazzaneve al peccio TAR, può acquistare col ricavato dei robusti trinciaerba, anzi, per dirla alla furlana, dei frucerunduie. Il vino novello è una tipologia poco diffusa in Friuli Venezia Giulia, ma ha una clientela invece molto affezionata. Marco Molison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci ricorda quali sono le sue caratteristiche. Allora, a scanso di equivoci, diciamo subito che il novello non è quella bevanda dolce e leggermente alcolica che tradizionalmente si serve con le caldaroste. Quest'ultima, che altri chiamano erroneamente ribolla, non è altro che un mosto d'uva parzialmente fermentato. Il novello, al contrario, è un vino vero e proprio, rosso, secco, leggermente amabile, quasi sempre fermo ma talvolta anche frizzante, e che da sempre è sottoposto a una precisa regolamentazione nazionale, tanto in fatto di produzione che di commercializzazione. Cominciamo dalla produzione, allora. La caratteristica principale del vino novello è che deve essere prodotto almeno per il 40% con uve sottoposte a macerazione carbonica. La tecnica prevede di introdurre le uve intere all'interno dei fermentini chiusi ermeticamente in modo che l'ambiente si saturi rapidamente di anidride carbonica. Si induce così negli acini un particolare metabolismo cellulare anaerobico che consuma zucchero e produce alcol etilico, glicerina e una serie di composti aromatici molto caratteristici. Questo processo dura da qualche giorno a 3 settimane circa, dopodiché la massa, che ormai si è naturalmente ammustata, viene estratta e pigiata. Poi la fermentazione alcolica viene completata in modo tradizionale con l'intervento dei lieviti e in ogni caso per legge la vinificazione del novello non può durare meno di 10 giorni. A prodotto finito dopo, quali sono le sue caratteristiche? Allora, si otterrà un vino molto fruttato, con sentori che ricordano la fragola, il lampone, i frutti di bosco, molto morbido, anche grazie alla glicerina che si è sviluppata durante la fase anaerobica, colorato ma poco tannico. Per sua natura è un prodotto che non si presta all'invecchiamento e che pertanto è bene consumare subito anche per apprezzarne appieno i profumi. Al consumo deve presentare almeno 11 gradi alcolici e massimo 10 grammi litro di zuccheri residui. Si diceva poi delle regole per la commercializzazione. Premesso che la menzione novello è utilizzabile esclusivamente per i vini DOC e GT, i cui disciplinari possono introdurre prescrizioni particolari, ci sono due regole trasversali che valgono in tutta Italia. In primo luogo, il confezionamento di questi vini deve avvenire entro il 31 dicembre dell'annata di vendemmia, che deve essere sempre dichiarata in etichetta. Secondariamente, il vino novello non può essere immesso al consumo, vale a dire commercializzato al cliente finale, prima delle ore 00 e 01 del 30 ottobre dell'anno di vendemmia. Sembrerà strano, ma i decreti ministeriali dicono proprio così. Gli anni bui dell'olivicoltura del Novecento, questo è il titolo per questa puntata che Ennio Scarbolo fa per la rubrica dell'olio e dell'olivo. Agli inizi del secolo non si sapeva la reale consistenza dell'olivicoltura nella nostra regione. Non dimentichiamoci che non faceva parte dell'attuale intera provincia di Trieste, quella di Gorizia e parte di quella di Udine. L'olivo era presente solo in coltura promiscua, piante sparse sui colli delle zone di Cividale del Friuli, Faedis, Tarcento, colline di Butrio, colline moreniche di Buia e San Daniele, fino a Pinzano e Castelnuovo del Friuli, ma riprendeva nella zona di Montereale, Valcellina e ad Aviano giù fino al confine con il Veneto nella zona di Canova. Piante sparse c'erano anche in pianura, testimonianze tramandate oralmente, i vecchi raccontano di questa pianta di olivo presente nei paesi a testimonianza di una cultura ormai passata, molto rare, che incuriosivano la gente con la produzione di questo strano frutto oleaginoso che al gusto era molto amaro. In questi luoghi non c'erano frantoi per la moltitura delle olive. E venne la terribile guerra del 15-18. L'olivo non fu risparmiato, anzi, semmai molto trascurato e abbandonato. Questo perché in regione non è mai stata considerata una pianta primaria, fondamentale per l'alimentazione locale. Al consumo di grassi vegetali si preferiva quello animale. Dopo queste terribili vicende belliche, l'agricoltura ne è uscita distrutta dall'olivicoltura, non ci fu traccia per diversi anni, salvo in alcune zone particolari della provincia di Trieste. Ma fu l'inverno del 29 che distrusse tutta l'olivicoltura della regione e delle regioni vicine. All'inizio dell'anno ci fu un'abbondante nevicata, 25-50 cm in pianura, oltre 1 metro in montagna. Le temperature minime scesero a meno 17-18 gradi sotto zero e anche le massime rimasero per diversi giorni a meno 8, meno 10. Naturalmente con queste temperature tutte le piante di olivo morirono, i ceppi si salvarono. Nella primavera successiva si è dovuto procedere al taglio alla base di tutte le piante di olivo, piccole e grandi. Erano tutte quante dissecate e spaccate dal gelo. La gran parte dei ceppi sono rimasti vivi, durante i mesi successivi hanno ripreso a vegetare. L'anno dopo si è dovuto procedere ad un attento esame e ad una selezione di nuovi germogli. Negli anni successivi questi germogli, se provenivano da piante ottenute da talea, venivano allevati, se erano selvatici innestati. Solo pochi appassionati hanno fatto tutto questo. Purtroppo frutticoltori hanno abbandonato la coltura. Reinnesti sono stati eseguiti nella zona di Muggia e San Rodrigo della Valle, molto meno nelle altre zone. Ancora oggi si vedono questi innesti e in molti casi c'è stato un cambio di varietà, piante originarie di varietà buga sono innestate con bianchera. Tutto questo ha fatto perdere molti anni. Il bosco delle rose e dei tartufi è il titolo del contributo di oggi di Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini. Siamo d'autunno e per l'occasione parliamo di un grande giardino che si trova a Cavolano in comune di Sacile. Comprende il bosco delle rose antiche, l'orto dove in libertà circolano gallinelle e galletti e una tartufaia. Artefice di tutto è Loris Dalcin. Nel 1997 creò vicino a casa l'impianto per un bosco da legname. Lo suddivise in filari formati da piante principali, noci europei e ciliegi, assieme a piante secondarie, betulle, ontani e noccioli. Tagliate dopo un decennio le secondarie, inserì al loro posto le rose e poi arbusti, piante perenni, bulbose, graminacee e felci. Nacque così il bosco delle rose antiche. E cosa c'entrano i tartufi? Nel terreno limitrofo Loris impiantò anche una tartufaia di noccioli, carpini e querce con radici micorizzate. Il tartufo è un fungo sotterraneo che vive in simbiosi con la pianta. Per 6 anni non successe nulla, ma nell'autunno del 7° anno il cane di un amico fece scoprire 3-4 tartufi di piccole dimensioni. Da allora è cominciata la produzione. Limitata, specifica Alex Dalcin, il figlio di Loris, ma possiamo dire che l'esperimento è riuscito. Loris Dalcin continua ad arricchire le sue collezioni. 900 sono le varietà di rose, soprattutto botaniche e ibridi antichi, tra cui galliche, banksie e gigantee. In primavera la loro fioritura è preceduta da quella dei ciliegi selvatici, che formano in alto nuvole di fiori bianchi che attirano le api. Basta piantare, gli dice spesso la moglie Gabriella, ma il giardiniere, come dice Loris, per il momento non si arrende. Legge, si aggiorna, osserva, mette a dimora, sposta, affinché ogni pianta cresca bella e rigogliosa senza trattamenti chimici. L'ultima novità? Un laghetto con ninfee tuttora in fiore. Un luogo, per tanti motivi, da scoprire. Con Sandro Menegon, nella terza puntata dedicata all'etame, eravamo in quota, cioè negli alpeggi. Penso quindi che oggi si possa scendere un po' più a valle. Sì, negli stavoli, ubicati tra il fondovalle e le malghe. Gli animali venivano ricoverati in primavera, durante la salita verso i pascoli e in autunno durante la discesa verso i paesi. In primavera davano fondo le scorte di fieno falciato l'anno precedente e si abituavano a pascolare, e in autunno si alimentavano con i ricacci dei prati, completando la razione del fieno raccolto durante l'estate. I boschi che delimitavano i stalis fornivano la foglia che veniva usata come lettiera. Generalmente le deiezioni solide e lo strame erano accumulate presso il fabbricato, andando a costituire l'etamaio, mentre le urine e il colaticcio dell'etamaio stesso si disperdevano nel prato. Il letame più o meno maturo veniva distribuito sui prati pascoli, prevalentemente in autunno. Qual è la fotografia del fondovalle? Nella zona alpina prealpina, generalmente in conseguenza dell'agglomeramento delle costruzioni, il letamaio vicino alla stalla era di modeste dimensioni. In molti casi, infatti, gli elevatori, in un appezzamento non molto lontano dall'abitato, avevano un mucchio supplementare, denominato in alcune località mussulin. A fianco a questo cumulo generalmente veniva piantato un noce, creando una simbiosi indotta. Infatti l'ombra dell'albero riparava il letame dei raggi del sole e questo sgrondava nutrienti alla pianta. Considerata la limitata superficie destinata ai semi nativi, si può dedurre che anche in fondovalle venisse utilizzata la foglia degli alberi per la lettiera, dunque? Sì, e il letame veniva distribuito negli orti, nei campi e nei prati. Orti, potremmo considerare l'orto un piccolo appezzamento a coltura intensiva, lautamente concimato, onde ottenere da poca terra un largo prodotto. Coltivi da vanga, generalmente la fertilizzazione era localizzata, si vangavano gli agar solchi, si riempivano di letame e la terra che aveva costituito la cumierie porca dell'anno prima, versata sul letame, andava a formare la cumierie dell'anno in corso. La natura del suolo poteva far variare gli attrezzi usati, vanga o forca, e l'utilizzo di metodiche diverse, comunque tutte atte generalmente ad ottenere una concimazione localizzata. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo e prezzi in salita venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,80 a 16 euro il quintale IVA esclusa, la soia tra 32,60 a 33,10, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,30 a 15,80, il frumento tra 17,10 e 17,40. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 80 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 30 centesimi. Scambi pressoché stazionari all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 90 centesimi e 1 euro il chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 90 e 1,20, le melanzane tonde tra 1,30 e 1,40, la scarola riccia tra 2,30 e 2,50, i pomodori italiani in grappolo tra 1,70 e 1,80, i finocchi tra 1,30 e 1,50, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce tra 1,80 e 2,50, i peperoni gialli e rossi tra 1,30, i cavoli tra 1,20 e 1,50, i kiwi tra 2 e 2,30, i meloni tra 1,80 e 2 euro, le mele gala tra 1,20 e 1,50, le fuji tra 1,40 e 1,50, le pere abbate tra 1,80 e 2,40, quelle Williams tra 1,70 e 1,80, l'uva tra 1,10 e 1,80 e le clementine italiane tra 1,80 e 2,30. Settimana positiva nel settore della pesca. Alla cooperativa pescatori di San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati tra 18 e 23 euro al chilo IVA esclusa, le orate da 8 a 22, le sogliole da 10 a 20, le canocce da 11 a 14, le seppie a 10 euro al chilo, i latterini a 9, le passere a 15, i moscardini a 14, le anguille a 17 e 18 euro al chilo. Infine, poche variazioni nel mercato degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 1,11 e 1,13 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,59 e 1,61, le faraone tra 2,15 e 2,19, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 2,43 e 2,49, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 13,20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo sentiamo che cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Questi ultimi giorni hanno portato un tempo ibrido, in parte autunnale con le brume tipiche di ottobre, in parte estivo con qualche rovescio. Nei prossimi giorni il tempo risulterà più stabile per l'allontanamento delle correnti sud-occidentali in quota e l'espansione contestuale di un'alta pressione. Domani quindi avremo nuvolosità variabile e forse ancora qualche pioggia alternata a schiarite. Da martedì a giovedì il tempo sarà più stabile, con maggiore presenza di sole e correnti più asciutte in quota, mentre nei bassi strati vi stagnerà umidità e si addenseranno foschie e nebbie notturne, in pianura e sulla zona lagunare in particolare. Le temperature massime tenderanno a salire leggermente su valori ancora superiori alla norma. Nel prossimo fine settimana una depressione mediterranea potrebbe avvicinarsi leggermente all'Italia, determinando il richiamo di correnti orientali più secche nei bassi strati. Dovrebbe quindi prevalere ancora tempo stabile o il più variabile, ma con bora moderate e temperature ancora decisamente miti. Le grandi piogge autunnali quindi non sono ancora all'orizzonte. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni Osmer ARPA, che vengono diffusi anche dalla RAI regionale con i notiziari radio e in TV con Buongiorno Regione al mattino, tramite internet, telefonia mobile e i vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Tant'alta il ven el scritch, tante alte e ven la neif. Ovvero, tanto presto arriva il pettirosso, tanto presto arriva la neve. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Natascia Gargano e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? V Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.